Sezione sesta della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto sesto. Posciacché Costantin l'aquila volse contra il corso del ciel che la seguio, dietro l'antico che la vigna tolse, 100 e 100 anni e più l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne, vicino a monti de quai primo uscio, e sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo lì di mano in mano, e sì, cangiando, in su la mia pervenne. Cesare fui, e son Giustiniano, che per voler del primo amor ch'io sento dentro alle leggi trassi il troppo e il vano. E prima ch'io all'opra fossi attento, una natura in Cristo esser non più e credeva, e di tal fede era contento. Ma il benedetto Agabito, che fu e sommo pastore, alla fede sincera mi ridrizzò con le parole sue. Io gli credetti, e ciò che suo dir era veggio ora chiaro, sì, come tu vedi ogni contraddizion è falsa e vera. Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, a Dio, per grazia, piacque d'ispirarmi l'alto lavoro, e tutto in lui mi diedi. E al mio belisar comendai l'armi, cui la destra del ciel fu sì congiunta che segno fu ch'io dovessi posarmi. Or qui alla question prima s'appunta la mia risposta, ma sua condizione mi stringe a seguitare alcuna giunta, perché tu veggi con quanta ragione si muove contra il sacrosanto segno e chi il s'appropria e a chi lui s'oppone. Vedi quanta virtù l'ha fatto degno di riverenza e cominciò d'allora che Pallante morì per dargli regno. Tu sai che il fece in alba sua dimora per 300 anni ed oltre, infino al fine che i tre a tre pugnar per lui ancora. Sai quel che fe dal mal delle Sabine, al dolor di Lucrezia in 7 regi, vincendo intorno le genti vicine. Sai quel che fe, portato dagli egregi romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, incontro agli altri principi e collegi, onde Torquato e Quinzio, che dal Cirro negletto fu nomato, e Deci e Fabi ebber fama, che volentier Mirro. Esso atterrò l'orgoglio degli arabi, che di retro ad Annibale passaro l'alpestre rocce, po di che tu labi. Sott'esso giovanetti trionfaro Scipione e Pompeo, e da quel colle sotto il qual tu nascesti parve amaro. Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle ridur lo mondo a suo modo sereno, Cesare, per voler di Roma il tolle. E quel che fe, da Varo e fino al Reno, Isara vide ed era e vide Senna, ed ogni valle onde il Rodano è pieno, quel che fe, poiché egli uscì di Ravenna e saltò il Rubicon, fu di tal volo che non seguiteria lingua né penna. Inver la Spagna rivolse lo stuolo, poi ver Durazzo, e Farsaglia percosse, sì che il Nil caldo sentissi del duolo. Antandro e Simoenta, onde si mosse e rivide, e là, dove Ettore si cuba, e mal per Tolomeo poi si riscosse. Da onde venne folgorando a Giuba, poi si rivolse nel vostro occidente, dove sentia la pompeiana tuba. Di quel che fe, col baio lo seguente, Bruto con Cassio nello inferno latra, e Modono e Perugia fu dolente. Piangene ancor la trista Cleopatra, che, fuggendogli innanzi, dal colubro la morte prese, subitana ed atra. con costui corse insino al lito rubro, con costui pose il mondo in tanta pace che fu serrato a Giano il suo delubro. Ma ciò che il segno che parlar mi face fatto avea prima e poi era fatturo per lo regno mortal che a lui soggiace diventa in apparenza poco e scuro se in mano al terzo Cesare si mira con occhio chiaro e con affetto puro, che la viva giustizia che mi ispira gli concedette in mano a quel che io dico gloria di far vendetta la sua ira. Or qui t'ammira in ciò che io ti replico. Poscia, con Tito a far vendetta corse della vendetta del peccato antico. E quando il dente longobardo morse la santa chiesa, sotto le sue ali Carlo Magno, vincendo, la soccorse. Omai puoi giudicar di quei cotali che io accusai di sopra e dei lor falli, che son cagion di tutti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone, e l'altro appropria quello a parte, sì che forte a veder qual più si falli. Faccian gli ghibellini, faccian lor arte sott'altro segno, che mal segue quello sempre chi la giustizia è lui di parte. E non l'abbatta isto Carlo Novello co guelfi suoi, ma tema degli artigli che a più altro leon trasse l'ovello. Molte fiate già pianser di figli per colpa del padre, e non si creda che Dio trasmutilarmi per suoi gigli. Questa picciola stella si correda dei buoni spirti che sono stati attivi perché onore e fama gli succeda. E quando li disiri poggian quivi si disviando, pur convien che i raggi del vero amor in su poggin men vivi. Ma nel commensurar dei nostri gaggi col merto è parte di nostra letizia, perché non li vedem minor né maggi. Quinci addolcisce la viva giustizia in noi l'affetto sì che non si puote torcer giammai ad alcuna nequizia. Diverse voci fanno dolci note, così diversi scanni in nostra vita rendon dolce armonia tra queste ruote, e dentro alla presente Margherita luce la luce di Romeo, di cui fu l'opera grande e bella mal gradita. Ma i provenzali che fer contra lui non hanno riso. E però mal cammina qual si fa danno del benfar d'altrui. Quattro figlie ebbe e ciascuna reina Ramondo Berlinghieri, e ciò gli fece Romeo, persona umile e peregrina. E poi il mosser le parole biece a dimandar ragione a questo giusto, che gli assegnò 7 e 5 per 10. Indi partissi povero e vetusto, e se il mondo sapesse il cuor che gli ebbe mendicando sua vita a frusto assai lo loda e più lo loderebbe. Fine del canto 6.